Domenica 13 marzo al TPO ci sarà il reading Finché Galera non ci separi e siamo qui per parlarne con il cantautore e attore Pierpaolo Capovilla. Buongiorno Pierpaolo e benvenuto ai microfoni di Radio Città Fugico. Ciao a tutte e a tutti quanti della radio, agli ascoltatrici e ascoltatori. La lettura Finché Galera non ci separi nasce dall'omonimo libro di poesie scritte da Emidio Paolucci, detenuto nel carcere di Pescara. Ti volevo chiedere, Pierpaolo, come è avvenuto il vostro incontro e che cosa ti hanno trasmesso le sue poesie che poi appunto porterai sul palco del TPO? Una domanda bellissima questa, che però esige una risposta piuttosto accurata, diciamo così. Io Emidio l'ho conosciuto un po' per caso, mi arriva un libro qui a casa, come me ne arrivano tanti, diciamo, perché sai com'è, i followers, gli ammiratori, i fan, diciamo, del teatro degli errori, di quello che faccio, che non faccio, insomma, me ne arrivano tanti. Rimase lì un paio di mesetti dentro la sua busta questo libro, si intitola Senza speranza e senza disperazione. Non mi piacque la copertina, pensai, vabbè, chissà che cos'è, il solito poeta che vuole dirmi di essere un poeta. Quindi prestai un'attenzione, così come dire, molto, molto superficiale, finché un giorno non lo aprii nel bel mezzo del testo. Ne lessi un paio di poesie e mi emozionai praticamente subito, immediatamente. Pensai, e questo chi diavolo è? Un poeta vero, indubbiamente, qualcuno che dice la verità, un parresiastes dei nostri tempi, come lo fu Pasolini. Parresia, voglio ricordare, l'arte socratica di dire il vero di fronte al potere, di fronte al tiranno. E poi anche un carveriano, uno che non la manda a dire, diciamo, usa parole semplici, quasi acmeiste e violente, e che arrivano dritte al cuore per spezzartelo nel cuore. E allora pensai, innanzitutto mi chiesi, ma chi è questo Emidio Paolucci? E poi scoprì che c'era una lettera dentro e capì che si trattava di un detenuto. A quel punto presi contatto con lui, gli scrissi, e poi da lì nacque così questa avventura, che è anche un'avventura sentimentale, amicale, di amicizia profonda, che si è venuta poi instaurando fra noi due. Posso dirti che in questo ci scriviamo spesso adesso, io ed Emidio, e mi viene da dire che è quasi lui che aiuta più me nei miei momenti di crisi esistenziale che io lui, per dire. Lui però sta in carcere, e il carcere, lo sappiamo bene tutti quanti, è una condizione esistenziale insopportabile, terribile per chiunque ne faccia esperienza. Ovviamente per poterlo andare a trovarlo, per conoscerlo e interloquire direttamente con lui vis-à-vis, ho dovuto seguire tutto un protocollo del Ministero di Giustizia, della Polizia, per cui mi chiamò la Questura di Venezia per capire se il perché volessi conoscere questo signore, il perché lo volessi andare a trovare, non essendo io un parente, okay, un uomo di famiglia, non avrei avuto il diritto altrimenti. E in quell'occasione, mi piace raccontarlo questo aneddoto, avevo con me in tasca il libricino Senza speranza né disperazione, la sua prima raccolta poetica, e per spiegare a questo funzionario di polizia, giovane funzionario di polizia, un tipo piuttosto colto anche, devo dire, molto sensibile, gliene lessi una al volo, così come capitò a me quando mi emozionai la prima volta che aprì la sua raccolta. E questo funzionario di polizia si commosse, ecco, e quindi mi disse, ok, va bene così, lo puoi andare a trovare quando vuoi. Ecco, anche questa è una piccola, come dire, è un aneddoto che mi piace raccontare, perché ci racconta come il senso di umanità e di vicinanza umana, di fratellanza, ecco, ci riguarda tutti, anche gli uomini in divisa, come è giusto che sia. Tu, come citavi anche appunto all'inizio dell'intervista, hai una lunga carriera musicale sia da solista che con i gruppi anche da te fondati. In questo progetto collabori anche con un musicista, Pachi Zennaro, e quindi ti volevo chiedere come interagiscono musica e parole in questo spettacolo. Con Pachi Zennaro abbiamo lavorato a lungo, con il maestro Zennaro ho lavorato a lungo per musicare le poesie, è stato un lungo lavoro di preparazione prima delle registrazioni, poi siamo andati a Napoli a registrare quest'opera. Io con Zennaro ci collaboro da tanti anni, Op Torto Collo è il mio unico album solista, l'ha scritto lui praticamente, tre quarti delle composizioni musicali diciamo, del maestro Zennaro. Quindi questa è una collaborazione che dura da tanti anni e abbiamo una grande fiducia l'un l'altro, diciamo, quindi è nata, insomma, una collaborazione significativa e che durerà nel tempo. E questo, Finché Galera non ci separi, potrebbe persino sembrare ad un orecchio un po' più raffinato, diciamo, la continuazione di Op Torto Collo, se vogliamo, il mio unico album solista, soltanto che in questo caso, in tutta evidenza, i testi non li ho scritti io, ma li ha scritti l'amico e fratello Emidio Paolucci. Bene, giusto per citarli tutti, no, i componenti, diciamo, di questo spettacolo, ci sarà anche Andrea Chiesi con le sue illustrazioni, quindi non solo musica e poesia, diciamo, uno spettacolo veramente a tutto tondo. Rivedo Andrea dopo un bel po' che non ci vediamo, non vedo l'ora di riabbracciare il maestro Chiesi, che è il grande pittore, davvero. Sì, certo, non dimentichiamo, il Finché Galera non ci separi è impreziosito dalle illustrazioni originali di Andrea Chiesi, che si è prestato a collaborare, a contribuire appunto alla realizzazione di questa piccola opera d'arte con una generosità tipica soltanto dei grandi artisti, lasciamelo dire. Bene, Paolo, io ti ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino il reading Finché Galera non ci separi, e ricordo ancora una volta che sarà questa domenica 13 marzo al TPO. Grazie ancora. Grazie a te, a tutte e a tutti, buona giornata.